GR24, il sole 24 ore. Assedio alle ambasciate americane, disordini in Egitto e Yemen, il presidente egiziano a Bruxelles, Maometto, non si tocca. Monti con lo statuto dei lavoratori, meno occupazione. La Camusso replica, un governo ormai senza idee per Confindustria, ripresa però rinviata a primavera. Cresce ancora il prezzo del carrello della spesa per le famiglie, 600 euro in più all'anno. Renzi, mi candido a guidare l'Italia, ma se perdo aiuterò Bersani. La sfida per le primarie parte da Verona. Buongiorno dalla redazione, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Allora, lo avete sentito nei nostri titoli, il premier Monti ha rilanciato la discussione sullo statuto dei lavoratori, le reazioni già non mancano, ne parleremo tra poco, ma prima torniamo ancora a vedere che succede nei paesi arabi, perché è alta la tensione dopo l'uccisione dell'ambasciatore americano in Libia. In Egitto ci sono state dure manifestazioni, gli americani intanto hanno dirottato navi da guerra nel Mediterraneo, ma facciamo subito il punto con Valentina Furlanetto. Sì, come dicevi, continuano le proteste anti-americane. Il motivo così che viene additato è quello sempre del film americano contro Maometto, che sarebbe ridicolizzerebbe il profeta. Al centro delle proteste questo film, dicevamo, proteste che si sono tenute questa mattina al Cairo in Egitto. Ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia davanti alla sede diplomatica americana, almeno 13 feriti. Proteste anche a Sana'a in Yemen, dove i manifestanti sono riusciti a entrare nella ambasciata e hanno appiccato il fuoco ad alcune auto. La polizia ha cercato di disperdere la folla sparando in aria, disordini anche a Tunisi. Intanto due cacciatorpedieri militari americani sono in rotta verso la Libia come misura preventiva. Sono pronti anche i droni, mentre si è deciso di evacuare il personale diplomatico statunitense. Da Bruxelles ha parlato questa mattina il presidente della Commissione europea, Barroso. We call on the Libyan authorities to take all necessary measures to ensure such events do not reoccur. Abbiamo chiamato le autorità libiche perché prendano tutte le misure necessarie, perché non accadano ancora questi fatti e per assicurarci che vengano protette le ambasciate e i cittadini stranieri nel paese. Allo stesso tempo fatemi dire che l'Unione Europea condanna le offese alla religione. Ho il massimo rispetto per l'Islam e per tutte le altre religioni. La libertà di espressione non deve essere confusa con la propagazione dell'odio, con l'intolleranza, con il razzismo. E noi condanniamo, nei termini più pesanti, queste manifestazioni di odio. Detto questo, voglio anche che sia chiaro che non c'è mai una giustificazione valida per uccidere delle persone innocenti. That there is never a justification for killing the innocent people. A Bruxelles ha parlato anche il presidente egiziano Mohamed Morsi durante la sua prima visita in Europa. Stasera sarà anche a Roma. Il profeta è una linea rossa che nessuno deve toccare, ha detto, ma ha anche aggiunto che l'Egitto farà tutto il possibile per proteggere visitatori, turisti, diplomatici da atti di violenza illegali. Sentiamo proprio sul ruolo dell'Egitto Renzo Guolo, islamista, docente di sociologia delle religioni all'Università di Trieste. L'Egitto è all'origine di tutto. Morsi ha un problema, deve contenere la pressione dei salafiti che hanno ottenuto quasi il 25% delle elezioni, quindi hanno un bacino molto consistente e pescano lo stesso bacino elettorale islamista dei Fratelli Musulmani, che ovviamente hanno una politica meno radicale. Nei fatti gli Stati Uniti hanno un dialogo con i Fratelli Musulmani egiziani da molto tempo. E hanno considerato Morsi un interlocutore. Il fatto che l'Egitto abbia avuto anche un prestito al Fondo Monetario Internazionale sta a significare che l'apertura di Washington, insomma, c'è. Se andasse in crisi per questa vicenda sarebbe drammatica, ma ripeto, appunto, Morsi si muove in una situazione molto delicata perché ha un bacino, come dire, di contestazione radicale nel suo stesso settore, cioè che deve in qualche modo contenere attraverso una dinamica politica, cioè dare sfogo alle manifestazioni evitando che diventino un disastro come quello accaduto in Libia. Ecco. Dobbiamo aspettarci queste situazioni anche nei prossimi mesi e non ci sarà nulla di pacifico. E intanto si cerca di fare chiarezza sulla morte, sulla dinamica della morte dei quattro funzionari a Bengasi. Secondo fonti libiche e americane, i quattro diplomatici sono stati uccisi in due distinti episodi. L'ambasciatore e un funzionario sono morti per asfissia all'interno del consolato preso d'assalto da alcuni manifestanti armati di fucili automatici, razzi. In pochi invece i pochi agenti di sicurezza libici che proteggevano l'edificio hanno sparato in aria, ma non sono evidentemente riusciti a proteggerli. A quel punto i dimostranti hanno fatto irruzione nella villa, l'hanno saccheggiata e data alla fiamme. Invece altri due diplomatici sono morti qualche ora dopo in una sparatoria avvenuta in un altro edificio dove si erano rifugiati in attesa di partire per Tripoli. Tutto questo farebbe pensare chiaramente a una regia più sofisticata, insomma le proteste, i manifestanti che hanno protestato contro i film centrerebbero fino a un certo punto. E grazie allora Valentina Furlanetto, naturalmente continueremo a parlare nel corso della giornata. Veniamo però ora invece in Italia, dicevamo, con lo statuto dei lavoratori meno posti di lavoro, una stoccata arrivata questa mattina dal Premier Monti. Basta caccia alle streghe, il mio non è il governo dei banchieri. Mario Monti torna a difendere il suo esecutivo e non risparmia qualche critica a decisioni politiche prese in passato. Intervenendo in videoconferenza ad un convegno all'Università Roma 3, il Presidente del Consiglio stamattina ha ribadito che i sacrifici chiesti a cittadini e imprese negli ultimi mesi hanno evitato il tracollo finanziario dell'Italia e il suo commissariamento da parte della Troica. Senza l'euro i prezzi ora sarebbero più alti, ha poi aggiunto il Premier, che tra i molti temi toccati nel suo intervento ha parlato anche dello statuto dei lavoratori, sostenendo che in parte ha finito per danneggiare chi intendeva tutelare. Certe disposizioni dello statuto dei lavoratori, di nuovo ispirate all'intento molto nobile di proteggere la parte più debole, ritenuta essere quella del lavoratore, hanno potuto contribuire a determinare insufficiente creazione di posti di lavoro. Monti si è poi detto sereno sul futuro delle misure che il suo esecutivo lascerà in eredità ai prossimi governi. Quanto al suo futuro, ha spiegato invece che è più facile conquistare e mantenere prestigio a 360 gradi se si è al di fuori della politica. E io non ho mai aspirato al ruolo di tecnico di area, ha poi aggiunto il Premier. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Replica già arrivata dalla leader della CGIL Susanna Camusso. Penso che sia la dimostrazione che questo governo non ha idea su cosa fare per lo sviluppo e la crescita, ha detto riferendosi alle parole, le avete sentite, sullo statuto dei lavoratori. Pare che il governo abbia esaurito qualunque spinta propulsiva, ha aggiunto, la ripetizione di un film che abbiamo già visto. E a parlare anche il presidente di Confindustria Squinzi, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, la situazione è molto grave, dobbiamo tutti rimboccarci le maniche, impegnarci per uscire dalla crisi. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ribadisce l'intenzione degli imprenditori di lavorare per rilanciare crescita e produttività, così come la disponibilità a rivedere l'accordo del 28 giugno 2011, ma aggiunge che il governo può e deve fare la sua parte. I leader degli industriali parlano in occasione della presentazione dei nuovi dati economici del Centro Studi, dati che mostrano un quadro ancora allarmante, l'economia italiana resta in profonda recessione e non sono ancora netti segnali di una inversione di ciclo, il rallentamento globale si è accentuato nei mesi estivi e sono ritoccate al ribasso le stime del PIL 2013, meno 0,6% contro il meno 0,3% precedente. Giù anche i consumi, che nel 2012 registreranno la flessione più grave dal dopoguerra, e poi meno prestiti alle imprese, brusca frenata dei prestiti alle famiglie, peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Il 2013 si chiuderà con 1.480.000 posti di lavoro in meno. Una situazione che il presidente di Confindustria commenta così, sentiamo. Purtroppo i dati ci confermano che la situazione è molto grave. Ci sarà un miglioramento, ma sarà un miglioramento lento che verrà nella seconda parte dell'anno prossimo. Quindi purtroppo anche ritengo che emergeranno le tante situazioni difficili che ci sono, non solo nei casi che tutti conosciamo e che sono ampiamente mediatizzati, ma anche in quelle migliaia di piccole e medie imprese che stanno soffrendo moltissimo. Grazie ad Alessandra Schepisi. E anche sul fronte dei prezzi, l'Istat ha confermato l'inflazione ad agosto al 3,2%, superiore al rincaro del cosiddetto carrello della spesa, il cui tasso è del 4,2%. In sostanza si traduce, spiega il Codacons, in una spesa per beni che siamo costretti a comprare, i cosiddetti beni obbligati, di 600 euro in più all'anno. E vediamo anche come vanno i mercati il giorno dopo l'attesa decisione della Corte Costituzionale tedesca. Valeria De Rosa. Sì, buongiorno a te Anna, ai nostri ascoltatori. Sempre in calo i listini del vecchio continente, c'è molta attesa per quello che deciderà oggi la Federal Reserve, non tanto per quel che riguarda i tassi di interesse, quanto piuttosto per le misure per incentivare, per aiutare l'economia. Allora, in questo momento Parigi cede uno 0,73%. Francoforte lo 0,37%, Londra invece è sostanzialmente sulla parità, a Milano FTSE MIB in calo dello 0,76%, il FTSE All Share dello 0,61%, questo nonostante l'asta dei BTP a tre anni che è andata bene, ha visto il rendimento scendere sotto il 3% al 2,75% rispetto al 4,65% dell'ultima asta di luglio. Il Tesoro ha collocato l'intero ammontare offerto pari a 4 miliardi di euro con una domanda una volta e mezzo l'importo offerto. Questo non ha avuto un sostanziale effetto nemmeno sul differenziale BTP Bund, che è a quota 347 punti base in leggero rialzo. Tornando velocemente a Piazza Affari, pochi ancora i titoli che riescono a guadagnare. Di Asorin è sempre il migliore, guadagna oltre un punto e mezzo, mentre il peggiore resta Finmeccanica, che cede 4 punti percentuali. Per quel che riguarda i cambi, velocemente euro su dollaro 1,29,05 in questo istante, ed è tutto. Grazie Valeria De Rosa. Una notizia dell'ultima ora, ve la diamo subito. Il consolato americano a Berlino è stato evacuato a causa di un plico postale sospetto. Secondo i vigili del fuoco, tre uomini hanno avvertito difficoltà respiratorie dopo aver aperto il pacco nel quale era contenuta una sostanza sospetta. Vi terremo naturalmente aggiornati. Parliamo di Roma ora invece. La capitale non deve diventare un palcoscenico esclusivo per tutte le pur legittime manifestazioni. Parole del ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, che arrivano due giorni dopo i duri scontri tra forze dell'ordine e operai dell'Alcoa, che pongono un interrogativo. Esiste un problema di sicurezza? A questo tema dedichiamo Italia in controluce di oggi. Le anticipazioni da Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Una delle priorità da affrontare è quella delle manifestazioni di piazza, ha detto il ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, che per affrontare l'emergenza legata alle tensioni sociali oggi ha convocato il Comitato Nazionale Ordine e Sicurezza. Il ministro ha poi lanciato un appello ai sindacati, agli imprenditori, alla società civile per smorzare questi focolai di tensione. Sulla questione sicurezza e cortei nella capitale abbiamo sentito Carmelo Barbagallo, segretario confederale UIL con delega proprio alle manifestazioni. Noi il 10 maggio del 2009 col Comune di Roma e la Prefettura di Roma abbiamo sottoscritto come CGIL, CISL, UIL e altre forze politiche e sindacali un protocollo per la disciplina delle manifestazioni delle piazze di Roma. Noi le abbiamo sempre rispettato. Il problema vero è che poi la gestione è così, come capita, ma il forte disagio dei lavoratori non si imbriglia con divieti. Questo era solo un estratto, sentiremo tutta l'intervista tra poco, non solo questa, ci sarà anche la risposta del presidente di Confindustria Squinzi e poi avremo in diretta il prefetto di Cagliari per la situazione di tensione legata all'Alcoa. A te Anna. Grazie a Maria Luisa Pezzali. Torniamo a parlare però di Europa. Un segnale all'Europa è arrivato dalle elezioni olandesi. Chi pronosticava una vittoria degli euroscettici ha dovuto ricredersi. E allora torniamo dall'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Sì, buongiorno a tutti. Ebbene, il conteggio dei voti sta volgendo al termine e i risultati sono quasi sorprendenti, perché l'Olanda ha detto no, come dicevate voi, all'euroscetticismo e al populismo. Netta l'affermazione del Partito Liberale di Mark Rutte, il premier uscente, con 41 seggi, 10 in più dei precedenti. I seggi in Parlamento sono 150. Molto buona la formazione dei laburisti, 39 seggi più 9 seggi. Entrambi potenzialmente potrebbero formare una coalizione. Si tratta di due partiti che, seppur in modo diverso, sostengono l'euro, sostengono la linea di Maastricht. Debacle invece per il populismo del leader di estrema destra Wilder, il quale ha perso addirittura 9 seggi. Questo significa che non gli olandesi credono ancora nell'euro, anche perché il socialista Roemer, che era dato in grande ascesa per le sue invettive contro i parametri di Maastricht, per la sua contraghettata Jagel Welfare State, fiore all'occhiello dell'Olanda, si è tutto sommato alla fine ha conservato i 15 seggi delle altre elezioni. E adesso è tempo di trattative, perché l'Olanda non è certo un paese solerte a creare un governo. Si aspettano, ci vorranno settimane, forse mesi, ma comunque l'Europa per ora tira un sospiro di sollievo. Ed Amsterdam è tutto. Di tutto questo abbiamo già parlato, ripartiamo allora dalla politica con le primarie del Partito Democratico. Una grande scritta sulle fiancate, Matteo Renzi in rosso e la parola adesso in blu, ma niente simbole del PD sul camper che il sindaco di Firenze userà nel suo tour che si è aperto questa mattina a Verona. Mi candido a guidare l'Italia, ha detto, ma poi ha aggiunto, se perdo aiuterò Bersani. Se si perde non ci si inventa l'ennesima formazioncina politica di serie Z. Se si perde si dà una mano a chi ha vinto, perché la sconfitta fa parte del gioco e la vera sconfitta è non provarci. Se noi perdiamo saremo in prima fila a dare una mano a chi ha vinto. E se si vince, viceversa. E se si vince, che questa ipotesi la considerano un po' di poco, ma non è un problema. Abbiamo qualche mese davanti per far loro cambiare idea. Se si vince non si tratta di cambiare partito, si tratta di cambiare l'Italia. Il punto di Stefano Folli. Comunque andranno le cose, Matteo Renzi ha già vinto la sua personale sfida. Dopo queste primarie e al di là di come sarà confezionata la nuova legge elettorale, quasi certamente a protezione dei partiti tradizionali, bene, al di là di questo la politica non potrà più essere quella di prima. Il sasso nello stagno è stato gettato. Le attenzioni mediatiche ottenute dal sindaco di Firenze e non solo, il trasporto spontaneo dei cittadini, gli applausi, il sostegno trasversale, quindi al di là degli steccati, raccolto quando già la campagna non era ancora cominciata, ebbene tutto questo dimostra che c'è bisogno di novità credibili. Lui Renzi credibile non lo è ancora del tutto, ma il suo messaggio di cambiamento ha già messo in moto un processo che sarà inarrestabile e che è registrato dai sondaggi. Se fossimo in America, l'invocazione del cambiamento sarebbe sufficiente a produrre un Obama casalingo, ma siamo in Italia e forse prenderà più voti Bersani, uomo equilibrato e rassicurante. Eppure la ruota della politica ha cominciato a girare e non si fermerà. E questo riguarda la sinistra, ma riguarderà anche la destra. E noi voltiamo decisamente pagina perché parliamo invece di Champions League. Dario Ricci. Eh sì, buongiorno Anna, buongiorno a tutti dalla Piazza del Duomo qui a Milano. La Champions League sbarca a Milano perché inizia oggi proprio dalla piazza centralissima di Milano il Champions League Trophy, il trofeo più importante, la Coppa delle Grandi Orecchie, in giro per tutta l'Italia da oggi, poi a settembre a Torino, Bologna, Palermo, Napoli, in un tour che si concluderà a Roma il 22 ottobre. Milano, città che della Champions è la capitale, perché con 10 titoli, 7 del Milan, 3 dell'Inter, oggi la presentazione promossa da Unicredit, presenti Luis Figo e Ruud Gullit, due bandiere di Inter Milan che la Coppa Campioni della Champions la conoscono più che bene, ma forse le dichiarazioni più interessanti sono arrivate dal vice direttore generale di Paolo Fiorentino, membro del board della Roma, che ha commentato le esternazioni del suo tecnico, di fatto Zdenek Zeman, che proprio ieri ha ribadito quanto sia importante separare calcio e affari, auspicando il delisting delle società quotate in borsa. Beh, Fiorentino un po' sorpresa ha dato ragione al suo tecnico, perché ha detto quelli del calcio sono titoli talmente volatili che è veramente tutto sommato imprudente giocarci troppo in borsa, e poi la mancanza di ad hoc qui in Italia rende il business calcistico ancora molto complesso. Molto complesso, grazie a Dario Ricci. Allora alle 14 torneremo naturalmente a parlare invece di sport giocato. Parliamo d'altro ora invece, prima di chiudere. Un anno fa Walter Bonatti, grande scalatore ed esploratore, moriva a Roma a 82 anni e moriva da solo perché alla sua compagna non fu permesso di condividere gli ultimi momenti della sua vita perché non erano sposati. Lei, Rossana Podestà, lo ha raccontato in un libro, Una vita libera, edito da Rizzoli. L'ha intervistata Dario Ceccarelli. È rimasto uno dei dolori più grandi che io ho provato nella mia vita. Io ho fatto di tutto perché Walter potesse essere felice durante la sua malattia. Lui non se n'è neanche accorto, tranne l'ultima settimana. E l'idea di aver perso la possibilità di controllare la sua morte. Io volevo che fosse dolce, che fosse in braccio a me, che potessi tenergli la mano. gli potessi sussurrare cose che forse lui non avrebbe sentito, ma che comunque gli potevano anche fare del bene. Invece me l'hanno tolto e l'hanno lasciato soffrire in una maniera terribile, perché la mancanza di ossigeno è una premorte, per cui lui ha passato una giornata agonizzando senza, e non gli davano niente, lo lasciavano lì. E questa cosa per me è stata intollerabile e non potrò mai dimenticarla, mai. Non deve essere stato facile scrivere un libro così intimo e così anche pubblico. Ecco, questo è stato il problema, però ho pensato che dire la verità aiuta, nel senso che siccome non c'era niente che potesse disturbare Walter, dicevo solo cose che lui ha vissuto e che sono servite alla sua crescita e alla sua formazione anche di alpinista, pensavo che queste cose fossero accettate, penso che lui le avrebbe accettate anche se fosse stato in vita, e per cui mi sono sempre messa dalla parte come se fosse lui a scrivere, capite? Parlasse di se stesso. Le 13:25 minuti è tutto da Anna Migliorati, ancora una buona giornata. GR24 vi aspetta alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Una buona giornata da Paolo Panceri. Settembre, tempo di nuovi palinsesti. Presentate a Milano le novità autunnali di D-Max, canale 52 del digitale terrestre e 140 di Sky. La rete debutta nella produzione Made in Italy, come spiega la vicepresidente contenuti programmi Discovery Italia, Laura Carafoli, al microfono di Marta Cagnola. Una di cui siamo molto molto contenti è si chiama Milano City Tattoo. Tu forse sai che Discovery da anni produce delle serie sui tatuaggi, Miami Ink, London Ink, New York Ink, vogliamo applicarlo anche noi qua in Italia. Pensa che addirittura in Italia ci sono qualcosa come 2000 studi di tatuaggi. A Milano è la città dopo Londra più attiva proprio nel mondo dell'arte dei tatuaggi, quindi ci siamo detti è il momento per fare qualche cosa, infatti abbiamo prodotto questa serie di 12 puntate. Poi c'è una riconfezione di un programma inglese che si chiama Football Hooligans, è un programma inglese, è una serie di 10 puntate sul mondo degli hooligans, molto violento se vuoi, gli europei. E abbiamo chiesto a Michele Dalai degli aneddoti con in qualche modo delle contestualizzazioni che ci avvicinassero un po' anche a delle storie molto vicine all'Italia. Partirà mercoledì prossimo, 19 settembre, Milano Moda Donna, trasfilate in mondanità. Ma questa sera, nella capitale della moda, si terrà il primo non fashion party. L'ha organizzato Cinar con Elio Le Storie Tese, questa volta nei panni inediti di baristi. Faso al microfono di Marta Cagnola. Noi non siamo fashion, infatti, per esempio, non so, in Corso Como c'è un cartello, sai come quello con i cani, col divieto d'ingresso, con la nostra faccia che ho scritto no, voi non potete entrare, noi non possiamo accedere a Corso Como, per esempio, perché è troppo fashion per noi. I tratti distintivi del non fashion sono i seguenti: non mettersi gli occhiali da sole quando il sole è già tramontato. Se non li metti non sei fashion, se li metti sei fashion, sei anche un cretino, ma sei fashion. Non abbiamo i pantaloni cadenti dai quali si possono intravedere le mutande, quindi non siamo fashion, siamo completamente fuori, capito? Siamo dei pazzi. La Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà giovedì 21 settembre un canto lungo 50 anni. Giovanna Marini, una delle più note cantautrici e studiose della musica tradizionale italiana, ripercorre mezzo secolo di carriera. A fianco della Marini, voce e chitarra, ci sarà il figlio Francesco, sax e clarinetto. Un genere, quello della musica popolare, che secondo Giovanna Marini non soltanto sopravvive, ma addirittura si sviluppa anche nell'epoca della globalizzazione. Questa musica interessa ai giovani perché loro la prendono, insomma, fanno che ne so, il gruppo etnico, ecco. Non ho mai sentito tanti gruppi di jazz etnico, è l'ultima moda questa. Di jazz etnico, cioè fanno il jazz, il free jazz, e ci uniscono degli incisi di campagna, contadini, veramente autenticamente contadini. Ma perché è successo anche questo? Che molti figli di persone di campagna sono stati mandati, per esempio, dalla Sardegna sul continente per imparare i modi di vita continentali e studiare e diventare buoni figli della borghesia. Tornano cantando la loro musica tradizionale, avendo formato il gruppo e pensando addirittura di farci una carriera, ecco. Ed è tutto per GR Spettacoli, ancora un augurio di buona giornata da Paolo Panceri.